domani, oggi è troppe incertezze per intravedere viaggi, ma nei miei sogni lontano ormai da qui, anima e corpo fuori da sta Babylon City. Domani, oggi è troppe incertezze per intravedere viaggi, ma nei miei sogni lontano ormai da qui, anima e corpo fuori da sta Babylon City. Continuo il viaggio perenne, che pure non inizia mai perenne, nonostante le certezze. E stringo i pugni ogni giorno più forte, perché la vita ringa se le dai le tue carezze. So di sicuro che sicuro non è niente, guarda il futuro ma il futuro mi è il presente. Non sarò certo che sto sole ci sia sempre, ma faccio in modo che la luce mia ora sia splendente. Stringimi forte, sempre più forte, resta sicura delle tue carte. Domani sempre, ma ieri e mai, ferma il sostante che non è sicuro che lo rivedrai. E non temere che domani io sparisca, staremo insieme anche se siamo distanti. Aspetto che anche stanotte si chiarisca, grazie alla luce forte e risplendente di questi istanti. Domani, oggi è troppe incertezze per intravedere viaggi, ma nei miei sogni lontano ormai da qui, anima e corpo fuori da sta Babylon City. Domani, oggi è troppe incertezze per intravedere viaggi, ma nei miei sogni lontano ormai da qui, anima e corpo fuori da sta Babylon City. Questo dolce suono che mi prende, che mi porta via lontano, originale stile zero level giamaicano. Stringo forte la tua mano e corriamo piano piano verso questa landa desolata. C'è una strada indicata, una faccia conosciuta, ma un miraggio che mi usa. Seguo solo la mia musa, la passione non ci brucia. Questo cuore, un solo amore, per indicare cosa vuole il nostro sole, che ci illumina con tutto il suo calore. Ore e ore, e le incertezze sono tante, un giorno spasimante, l'altro ignorante dei problemi. Ora è meglio che mi temi, per l'annulli i miei indomanti freni. Sogni estremi, vinci eterni, amori persi, molti in piazza, lotte vinte, lotte perse, le premesse sono queste. Libri stanchi, mari freddi, spiagge calde, occhi bianchi, per guardare l'orizzonte che ti affaccio sull'oriente. Domani, oggi è troppe incertezze per intraprendere viaggi, ma nei miei sogni lontano ormai da qui, anima e corpo fuori da sta Babylon City. Domani, oggi è troppe incertezze per intraprendere viaggi, ma nei miei sogni lontano ormai da qui, anima e corpo fuori da sta Babylon City. Everything now, boy, I'm Babylon City, boy, I'm Babylon City. Yeah, listen me, in the street I say you feel me, let me boom boom. How we going, love is cool, leave the rebel and let go. Have a happy dream now, boy, I'm Babylon City, boy, I'm Babylon City.